Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Tre studi clinici appena pubblicati su Nature e Nature Communication sostengono la potenziale efficacia della dieta MIMA digiuno a supporto delle terapie standard per il tumore al seno. Abbiamo in linea con noi il professor Walter Longo, direttore del programma Longevità e Cancro dell'Istituto di Oncologia Molecolare di Milano, coautore degli studi. Professor Longo, buongiorno. Buongiorno. Ci sono tre studi, uno relativamente grande con 125 pazienti randomizzato nelle pazienti in Olanda, in 12 centri diversi che ricevevano chemioterapia, e quello studio ha fatto vedere che la MIMA digiuno aumentava la risposta clinica, quindi la chemioterapia funzionava meglio sui tumori, e tra l'altro chi più faceva più cicli di MIMA digiuno aveva una risposta migliore, sia a livello patologico, cioè di quante cellule di cancerogene ci sono nel tumore, sia a livello di dimensione delle masse. Poi due studi pubblicati su Nature, in collaborazione con l'Istituto Nazionale Tumori e l'Università di Genova, invece questi erano sulle terapie ormonali, quindi pazienti col cancro alla mammella, terapie ormonali, e questi erano degli studi di feasibility, si chiamano, quindi non sono studi che possono fare delle conclusioni, ma sembrano molto promettenti per quanto riguarda l'aumento dell'efficacia anche della terapia ormonale contro i tumori se combinata alla MIMA digiuno. Un dato interessante, professor Longo, che emerge dagli ultimi studi è la stretta connessione tra tumore al seno e obesità. Ci vuole spiegare i meccanismi alla base di questa relazione? Intanto l'obesità sappiamo essere importante per l'incidenza dei tumori, diciamo, prima che proprio per avere il tumore o meno. E questo è dovuto probabilmente all'insulino resistente, almeno in parte all'insulino resistente. Cosa significa? Che diventando resistente all'insulina, quindi l'insulina non funziona più come dovrebbe, questa insulina aumenta e la glicemia aumenta, quindi si hanno livelli sia di glucosio, di zuccheri alti, sia di insulina alti. Quindi tanto insulina, tanto glucosio spinge proprio accelera l'invecchiamento da un lato, e poi per quelli che hanno il tumore spinge la crescita tumorale e previene, diciamo, blocca anche quello che si chiama apoptosi, quindi la morte programmata delle cellule tumorali. Quindi effetti sia dal punto di vista di prevenzione e sia dal punto di vista di progressione per un paziente che ha già il tumore ed è in terapia. Grazie professor Longo per essere stato con noi, a presto, buona ricerca e buona giornata. Grazie a voi. Per oggi è tutto nella nostra video intervista che trovate come ogni giorno sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Oggi parliamo di legamenti, perché si rompono e come si riparano. Buona giornata da Nicoletta. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.